io per l'inizio avevo pensato di simulare una telefonata in cui mi fai ma allora che dobbiamo fare per la prossima puntata? E io ti comincio a fare no, ma a me non me va, non c'ho voglia, io sono stanco. E poi la sigla. La musica e canto, devi cantare. Eclettismi spaziali. Tutto tropicale. E lo dici a me. Volevo solo dire puntata 29, senza conduzione, senza voglia. Ci affidiamo agli esperti. Vediamo che dice. Non ho voglia di fare niente, frase che viene pronunciata spesso da chi attraversa un periodo di apatia e che non si sente stimolato da quello che avviene ogni giorno nell'ambiente che vive. Quello di cui oggi invece parliamo è un tipo di apatia che è transitoria. Oggi proprio non ho le energie, non ho voglia di fare nulla. Allora, la prima fase, se segui questo percorso, sai che è l'accoglienza. Cioè mettersi in ascolto della propria apatia per sentire, avvertire e capire il messaggio che ci vuole trasmettere. Come? Devo accettare l'apatia? La devo accogliere? Ma... ma non si sono annoiati questi esperti? Basta. Io non sono geloso, non sono geloso, ma non perché per cultura svedese, non so, per pigrizia. A me il fatto di pensare di dover controllare o ragionare su qualcosa o inseguire o anche scoprire, perché pure scoprire è una cosa faticosissima. essere bello poltrire allegramente e fare nulla, delle volte anche troppo. Che sia per scansare un lavoro o evitare un'attività fisica, tutti l'abbiamo fatto. Ma come mai alcuni sono più pigri di altri? Esiste un gene del pantofolaio che rende pigri? Il piacere che proviamo arriva per lo più dai neuroni dopaminergici del cervello, che trasmettono questi messaggi per tutto il corpo. Ma se da una parte vorremmo tutti più cibo e sesso, molti si sforzano col desiderio di attività fisica. Dopo aver separato i topi in due gruppi, chi in genere corre di più sulla ruota e spesso, e chi invece preferisce non correre troppo, e dopo 16 generazioni corsero per 7 miglia al giorno rispetto ai 4 miglia di media. Altrimenti il cervello reagisce in modo simile ai roditori dipendenti dalla droga quando privati di cocaina o nicotina. Ed è emerso che la nostra pigrizia è legata al gene del pantofolaio. Il gene è responsabile di un tipo di recettore di dopamina, il che vuol dire che non sei condannato ad una vita di nulla facenza. Quindi, se pensi di essere geneticamente pigro, scendi dal divano e combatti il tuo DNA. Senti. È meglio che andrò da Wizzy, sennò lui dice facciamo la croce a prima mattina. A superat! E che stiamo a fare tu? Che stiamo a fare? A superat, a cena, a colazione, a pranzo. A superat te la pigliate dentro la cucina perché non tiene i servitori. Se non me la portate dentro il letto, non mi incosso. No, tu ti sozza! Se no ti faccio un po' ospitale, capito? No, guarda, no, quello proprio non mi piace. Ma che c'è fa? Non mi piace, e basta. Sozza te! Hai capito, sozza? Ah, superato! Alzate, belle mamma! Per la galera l'hai cresciuto, per la galera! Il mosso sozza! Comincia il telegrafo senza file, comincia. Susa da belle mamma, susa da te lavo tanto bella. Le mamma ti preparano un bello zuppone. Da fatta. Un zuppone si lo salsa su a prima del drago, cino perché non viene servito. È una serva tua madre, eh? È una serva? Tua madre non serve. Sono un monaco laico del monastero Ozien. Qui pratichiamo più di 10 ore al giorno lo sdraya zen, posizione per concentrare l'energia vitale e non disperderla. Il nostro motto è Wu Wu Wei, nemmeno non fare, perché se non fai stai già facendo. Quindi interrompiamo l'azione sul nascere. La posizione di meditazione che adottiamo davanti al maestro è sdraiati sul fianco destro per non affaticare il cuore e con il gomito piegato a 30 gradi teniamo la mano destra sulla nuca per reggerla con un'espressione di beata sufficienza. Ero uno di quei tipi che deve sempre avere qualcosa da fare. lo dicevo apertamente, la mia droga è il lavoro. E anche quando ho assunto sostanze, ho sempre prediletto le psicoattive ed eccitanti, quelle che ti fanno andare, che ti fanno ballare, ti fanno parlare, quelle che ti fanno fare, insomma. Per me oziare era dormire. Poi ho capito che l'ozio e il sonno sono due cose differenti. Ho dovuto impegnarmi per riuscire ad oziare senza che l'ansia e la mancata prestazione mi assalisse. Oggi per me l'ozio è come una pratica esoterica. Lo pratico. E quando riesco a praticarlo davvero bene, finisce che mi sento anche meglio. Ugualito al canto. Antonio di Padova, fuggite l'ozio. Il giusto è sempre occupato in qualche cosa. Non stare mai con le mani in mano. Si sa che certe piante, se non sono coltivate, ridiventano selvatiche. Così è dell'uomo pigro e indolente. Sant'Antonio. Bisogna cioè essere sempre occupati. Cioè preghiera, lavoro e lettura. La lettura non deve mai mancare per essere sempre occupati. Ecco, la persona perfetta, bisogna curarsi affinché noi possiamo sempre crescere nella vita, altrimenti diventiamo come le piante selvatiche, dice, ecco, diventiamo pigri e non produciamo frutto. Que femme, pas mon chemin, je deviens celui que je veux être au contact de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Au contact, je veux être, je deviens pas mon chemin, pas mon chemin. Que femme n'est pas, que femme n'est, c'est, que femme n'est, c'est, je deviens celui, c'est, au contact, c'est mon chemin, c'est, que je veux être, c'est l'amour. Thank you. lies, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. We'll be right back. causa della sua inazione, fu considerato un disertore e gettato all'inferno. Secondo San Tommaso d'Aquino, tutti i peccati causati dall'ignoranza hanno come radice la pigrizia. A causa dell'influenza di Beltegor, gli uomini preferiscono evitare la fatica e non raggiungono la vera conoscenza. Il diavolo è raffigurato seduto in una latrina che usa come trono infernale e le sue feci sono trasformate in offerte. resto sempre uguale. Preferisco il silenzio ora. Sono stanco di questo mondo, di questa gente, di essere invischiato nel groviglio delle loro vite. Just reading the whole time. I was just looking for the truth. I was searching for the truth. Before you pick up any instruction, sit, slow down. And I was sitting with a feeling that who am I without any relationship, without any attachment? I just burst into tears because I felt I was so happy with just being nothing. And rare it is that a human being comes to this, wake up fully once and for all. magnetismi spaziali. Sono tropicali. Che mi piace proprio tanto.